Svalvolati. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Oggi Giovanni Capuano non c'è, vi dovete accontentare del sottoscritto Carlo Genta, di Pierluigi Pardo che arriverà dopo e di un milione di ospiti che sono qui in studio. Infatti non ci stiamo più perché abbiamo Moggi, avremo Ferrero, abbiamo Berlusconi, abbiamo Ibrahimovic, abbiamo Gasparri, abbiamo Mattarella, Cuba, abbiamo Mini, abbiamo... Quiero bailar la salsa, Cuba. Tutti in una persona sola, Zelig, Andrew Mercu. Allora, Pino Insegno, buongiorno, ci risentiamo, a stretto giro di posta, non c'è, è caduto. Dove è andato? Voice Anatomy, che è appena terminato. Abbiamo questo, questo interscambio culturale noi a quest'ora. Pino, come è andato Voice Anatomy? Bene, benissimo. Sei divertito? No, molto, sai che sono 2:30 che volano, soprattutto, sai, le cose belle corte le lunghe sono corte, le cose corte ma brutte sono lunghe, invece questa è bella, però mi diverte tantissimo, a parte gli ospiti che sono ricchi, io sto lì e faccio da Virgilio, cioè mi faccio trasportare, cioè mi faccio da Dante, sono gli altri che mi trasportano in questo mondo, poi c'è quelle voci magiche, poi la radio, l'impero della voce, e tu c'hai le voci più belle che sono evocative, che ti raccontano, che leggono, che fanno sognare, dai. Chiudi gli occhi e viaggi. Dai, l'ultimo c'aveva Anthony Hopkins vicino a me, pensavo che si è magnato da un momento all'altro. è bello, poi io non mi considero, quando sto qui faccio il conduttore, no? Ovviamente mi tolgo dal fatto di essere un collega e uno che ci lavora, mi piace moltissimo, entro dalla parte dei radioascoltatori e con loro, con la curiosità, il sociologo, poi faccio finta di saperle tante cose perché ho degli autori bravissimi che vengono dei sociolinguisti e capisci, quando parli di certe cose ti perdi un attimo, no? E allora fortunatamente ho degli autori che mi suggeriscono le cose giuste, per cui faccio bella figura in radio. Mo l'ho detto chiaramente, mi sono sputtanato da solo. Allora, una volta un mio amico mi ha detto quello che non sai, quando non sai una cosa fai finta di sapere. Cioè, sì, assolutamente, ma che scherzi, io mi fermo poco prima che la gente capisca se sono bravo veramente o no a farla quella cosa, mi fermo sempre un attimo prima, devi sempre saperlo in qualche modo. Bravo, no, però sai, è interessante, a livello d'approfondimento è bello, divertente, affascinante, devo dire che il percorso è buono, mi piacerebbe che diventi una cosa un po' più continua da quel punto di vista, cioè, venire a avere delle pillole e quotidiane per far entrare la gente in questo mondo, perché la gente lo ama tantissimo, proprio il mondo della voce, che poi è l'elemento fondamentale di comunicazione. Poi una radio come la nostra che parla sempre bla bla bla, esatto, bla bla bla, vabbè, ma parla, però dice cose, dice cose, la voce è musica, benissimo. Diceva sempre qualcuno, e come dice il grande direttore l'altra domenica, questa è un'altra domenica sulle note della vecchia altra domenica di Le Grande Arbore, quest'altra domenica racconta storie di voce, storie di calcio, storie di storie. Sì, per cui è figo, è divertente, figo, mi piace molto. Senti, ti avverto, prima di salutare, se so che stai volando a Palermo, ti dico che Roma-Sassuolo 2-2, l'abbiamo detto 2-2. Prima, sì. Gol di Totti numero 300, due volte svantaggio a Roma. E questo comunque è un augurio gigantesco al capitano, se lo merita. Non dirò a nessuno, eri in fuori gioco. Vabbè, però il gol del 300, non gli può dire, cioè, ragazzi, è come quello che è stato con 300 donne, non gli può dire che uno che non gli piace fa l'amore, su, 300 gol non è invenzione, qualcuno sarà pure fuori gioco. Dove la guardi Napoli-Lazio? La guardi? Riesci a vederla? No, la guardo perché lavoro, ringraziando il cielo, eviterò di soffrire, perché Napoli ha sempre sofferto, anche se la Lazio ultimamente a Napoli ha fatto sempre risultato. Questa Lazio è un po' troppo altalenante ancora, c'è un po' meno continuità rispetto a quella che ci ha abituato all'ultimo periodo dell'altro anno, per cui spero che trovi la quadratura del cerchio. So che non c'è Candreva, però insomma, adesso Candreva con la Lazio ha giocato meno bene che con l'Italia. Spero che Keita sia messo al posto giusto, che Anderson si svegli e ritorni ad essere quello che ci ha abituato ad essere per 10 partite. Che ha giocato come Messi, cavolo, 10 partite come Messi e l'altra 10 come Pino Insegno. Cioè, non è che sia proprio. No, ma infatti bastano 10 partite per dire: ah, questo qui fenomeno. No, Barcellona, Real Madrid. Faceva qualsiasi cosa, la palla spariva, ritornava, era un illusionista. Poi non si può dimenticare così tanto. Sì, ha degli sprazzi sicuramente che rischiano di farti vincere la partita, però sprazzi. Prima invece era proprio cielo terzo, hai ragione. Per cui Napoli è sicuramente una buona piazza per noi ultimamente, però sai, Napoli in questo momento è rinvigorita anche dai 5 gol e noi siamo un po' tristi dei gol presi al 94esimo, insomma. Boh, sì, però, so, però è importante per tutte e due, dai, cioè Napoli che cerca la quadratura del cerchio, come dicono quelli bravi. Ragazzi, è appena cominciata la storia, per cui qui possiamo fare ancora tutti i risultati del mondo. Sì. Però certo, risultatino carino non sarebbe male. L'Inter invece sta andando come aveva predetto il signor Mancini, diciamo, diceva non vincerà neanche quest'anno, invece Mancini riesce poi a far quadrare il cerchio. Certo, si sono comprati pure Messi, cioè, comunque sì, non ho capito più niente. Si sta a fare l'album delle figurine, spero che esca in ritardo, perché altrimenti finisci una squadra ma non è più quella. Ma sai che ormai fanno le ribattute, no? Come dicono, sì, ormai, ormai aggiornano in continuazione anche l'album. Sì, mi mancherà sempre, perché in effetti almeno manca, noi non abbiamo problemi a ribattuta. Credo che la squadra che fa l'inizio dell'album resti quella in qualche modo, più o meno, a parte qualche introduzione momentanea, però credo che a parte madre, insomma, non so che cosa succederà. Non so come la formazione. Allora, insomma, beh, dai, divertente. Goliardicamente parlando, è divertente, perché veramente vale tutto il contrario di tutto. Guarda l'ultima partita della Lazio. Ah, sicuro. Segnare a 90 a quel punto, all'ultimo così. Però può succedere anche a te. Quando succede a te sei felice, quando succede a te contro te. Te incazzi. Sì. Mio figlio aveva meglio telefono, ha detto: hai visto che sta fuori? Sta giocando con la primavera del Perugia, la sta vedendo in streaming, e dico: allora, mannaggia la miseria, ha fatto bene, ma 1-0, però va bene. Ha fatto, ma quale 1-0? Ma quando hai staccato? Al 91esimo, hanno segnato il 94esimo. Vabbè, penso che Atalanta-Verona oggi un gol. È finita 1-1, perché un gol segnato mentre venivo qui a parlare con te, che era il 45esimo, ha dato 6 minuti di recupero e ha segnato il Verona. Atalanta-Verona, sai bene quali sono le storie dietro questa partita. Capirai. 52esimo. Vabbè, 52esimo del secondo tempo. Reggi e Bollini, non so come staranno. È già successo un'altra partita che l'Atalanta è stato raggiunto, sbaglio. Già successo. Non è fortunatissimo in zona Cesarini, però 52. Beh, zona Cesarini, questa è zona Marco Antonio, pure, perché sì, 52esimo. Ma non lo so che zona è, una zona fuori dal raccordo, perché sì, 52esimo. È una zona strana. Sì, è una zona strana. Va bene, Pino, mi avvio verso il banco degli imputati dell'aeroplano. Vado. A prestissimo, intanto voi sanatomi, domenica prossima, e noi ci sentiamo sempre. E siete tutti convocati, ovviamente. Tutti convocati. Ciao Pino, grazie. Ciao bello mio, saluto Pardo. Ciao, saluto Pardo più tardi quando arriva via telefono, perché anche so che anche lui è in viaggio. Così non va bene, gente. È ora di finire il giornalismo spazzatura. Allora, ascoltate una cosa. Allora, intanto vi invito tutti, 800 24 0024 fino alle 19, e guai a voi se non chiamate. Mi arrabbio. Ma queste sono minacce. Allora, adesso facciamo leggere i risultati di oggi al giornalista Luciano Moggi. Ma tu mi stai pigliando per i fondelli, ma io sono diventato giornalista. Lo so, proponiamo la verità. Giornalista, dove stanno i risultati? Sono scritti, perché io devo dire la verità. Sì, e perché mi fai scrivere? Abbiamo capito che e perché devi mi dire fai verità. Dire il risultato dell'Inter? Perché a Verona ha vinto l'Inter 1-0, ma queste cose non si dicono. No. Oscuriamo. Atalanta-Verona 1-1. Mm-hmm. Il Bologna poi ha battuto il Frosinone 1-0. E la Roma ha pareggiato col Sassuolo 2-2. E questa è l'unica verità. E ve la dice Luciano Moggi. Gli altri non dicono la verità. Il giornalista Luciano Moggi. Torino batte Sampdoria 2-0. E Carpi-Fiorentina non si gioca. No, si gioca, E poi c'è Napoli-Lazio. E la Juventus? È la Juventus che ha fatto, la Juventus ha vinto 2-0, mi sembra chiaro, è evidente, non occorre neanche dirlo. Secondo gol su rigore, No, solo per la cronaca? No, cerchiamo di non creare giornalismo spazzatura e sterili polemiche, non va bene, gente. C'era, ma secondo poi vi racconterò altre verità, perché sono giornalista, sì, certo. Diciamolo. Diffondiamo la verità. La verità è che la Ferrari oggi ha vinto in un weekend magico in cui ha ritrovato la pole position con Vettel ieri, e oggi ha vinto con Vettel davanti a Ricciardo Raikkonen, quarto Rosberg, che non riesce a recuperare più di tanto su Hamilton, che si è ritirato dai problemi alla Power Unit. Poi quinto Bottas, sesto Kvyat, settimo Perez, Verstappen. Gara strana, doppia safety car, la prima per un contatto tra Massa e Hülkenberg, e la seconda perché un signore è andato a farsi una passeggiata a bordo pista al 37esimo giro. Cioè questo a Singapore, Andrew Mercuri è come un matto, va a farsi una passeggiata a bordo pista. Questa non l'avevamo mai vista. Per fortuna era vestito, non era in déshabillé come ogni tanto succede a Wimbledon. Vabbè ragazzi, ci divertiamo oggi. 800 24 00 24, tutti convocati fino alle 19 e abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, compresa la classifica dopo il traffico. Convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento. Tutti convocati. Abbiamo Zaza, abbiamo Dybala in questo periodo fitto di partite. L'importante è che stiano tutti bene e soprattutto che ci sia questa predisposizione al sacrificio, la voglia di giocare più da squadra con meno frenesia come abbiamo fatto sia oggi ma soprattutto anche a Manchester. Massimo. Sì, la preoccupano questi infortuni muscolari? Muscolari, non so, vediamo, la Morata all'addominale è una cosa strana, vediamo cos'è che ha. Mandžukić, vediamo, è uscito da un po' di crampi, ha sentito un po' indurire dietro. Quando giochi tante partite con questa intensità, soprattutto in questo periodo dove c'è grandi dispendi nervose, ci possono stare, però direi. Fortunatamente abbiamo un parco attaccati importanti, vediamo come stanno, al limite tanto giocheranno gli altri. Questo Allegri su Mediaset Premium. Oggi torna la vittoria, alla vittoria in campionato la Juventus si allontana dalla zona salvezza, adesso ha 4 punti e comunque trova un gollonzo classico, traversa di Pogba e autorete di Lamanna, portiere del Genoa, episodio molto strano, molto curioso. Poi segna di nuovo Pogba su calcio di rigore, fallo su Chiellini mi sembra ci fosse. Antonio Di Gennaro, buongiorno. Ciao, voi, Antonio. Grazie. Buongiorno. Mi sembra che le notizie oggi siano l'Inter che all'ora di pranzo vince a Verona con la capolista Chievo 1-0 e torna al gol Icardi, ed è sempre 1-0 per la terza volta in 4 partite, però è sempre 3 punti. Mi sembra che la notizia sia appunto il ritorno alla vittoria della Juventus a Genova e poi questo 2-2 in doppia rimonta della Roma con il Sassuolo. Siamo alle solite, Beh, siamo alle solite della Roma perché non trova questa continuità. Io avevo commentato anche con il Frosinone, ha vinto, però non aveva convinto dal punto di vista proprio del gioco e della qualità. Poi in Coppa con il Barcellona è normale che abbia ottenuto un risultato importante, però poi è mancata nel campionato. Sì, il Sassuolo sappiamo che è una squadra che 3 anni giocano assieme, ma cambiano qualche elemento, però la fisionomia, l'identità anche di Francesco da quella squadra si rispecchia poi in delle giocate importanti, infatti hanno fatto soffrire con i giocatori offensivi. Poi ha recuperato, ci sono state delle polemiche, a parte il gol di Totti in fuorigioco e il rigore forse per la Roma del secondo tempo, però al di là di tutto è una squadra che ancora deve trovare quella continuità che magari anche l'anno scorso è mancato, soprattutto l'aspetto difensivo, perché ricordiamoci il primo anno di Garcia, a livello difensivo questa squadra era veramente molto forte. Sì. Per quanto riguarda l'Inter, credo che queste 4 vittorie rispecchi di una squadra che ancora si deve trovare, nel senso proprio di fare gruppo, perché sono tanti giocatori nuovi. Penso quando si trova. Appunto, però vincendo, soprattutto anche ritornando al discorso difensivo, subisce poco e questa è la cosa importante. Il Chievo l'ha fatta soffrire, però vincere in questi campi contro il Chievo, che era una delle squadre più in forma, vuol dire soprattutto con il gol di Icardi, con una prestazione proprio anche di grande umiltà, nonostante ci siano grandi giocatori, mi sembra che sia rispecchia questo momento suo e quindi sono 12 punti per certi versi meritati e quindi se li godono, anche perché non avendo le coppe possono lavorare bene. Io sottolineerei anche il fatto del Torino, oltre che diceva come della no. Juventus. Come no. La Juventus è tornata, diciamo, umile, serve questa vittoria perché poteva andare in una crisi ovviamente nonostante la vittoria di Manchester City e quindi di Manchester City. Quindi credo che in questo la Juventus abbia acquisito non soltanto i 3 punti ma la consapevolezza di essere ancora una squadra che potrà lottare per lo scudetto. Mi preoccupa, come sentivo giustamente anche dalla domanda di Allegri, questi problemi muscolari che insomma sono stata una continui, costante fino adesso. Sono continui. E poi il Torino credo che Ventura se lo meriti, perché sono 5 anni che sta dimostrando con l'idea di gioco, di calcio, soprattutto anche, diciamolo una volta, stanno valorizzando dei giovani ma italiani. No, ma io no, vedo, poi Antonio, io vedo, valorizzano vedo giovani squadre, italiani, ma poi rivitalizzano i giocatori. Un giorno ne parlavo con Pardo, ti ricordi quel film, Cucun, no? Li butti dentro la piscina e questi ringiovaniscono. Sì, veramente. Perché c'è un'organizzazione. Esatto, l'organizzazione, la programmazione, hanno operato bene nel mercato e quindi hanno un parco attaccanti importante, a parte Quagliarella, c'è Belotti che secondo me in prospettiva sarà, diventerà un attaccante forte. Zaza, ora con gli infortuni purtroppo per la Juventus, sentivo di Morata sicuramente, Mandzukic c'è da valutare, però insomma Zaza con Dybala potrebbe essere una coppia anche per valorizzare lui, anche per il nostro campionato. Stavo vedendo il Manchester United contro Southampton e Pelé ha fatto un gol, ne ha sperato un altro, ha preso un palo. E quindi noi abbiamo bisogno dei nostri italiani che vengano valorizzati, altrimenti la nostra nazionale si parla tanto di stage, vogliamo fare qui, vogliamo fare là, ma se non valorizziamo i nostri sarà dura per il soltanto per l'europeo, ma anche per i prospettivi. A star seduti non migliora nessuno, esatto. Quelli che stanno seduti non possono migliorare, piuttosto che giochino da un'altra parte, però stando seduti e facendo solo allenamento non cresci. Antonio, dimmi un'ultima cosa sul Milan che hai commentato ieri sera per ma il Milan era doveroso vincere per il Milan, anche perché affrontava una squadra sempre difficile come il Palermo, e l'anno scorso l'aveva fatta soffrire vincendo il Palermo, insomma l'anno scorso avendo anche altri calciatori, era una squadra magari più competitiva, però era non semplice visto il momento, visto la situazione. Sul piano del gioco è migliorato, anche se c'è tanto da lavorare, credo che questa squadra soprattutto nella gestione del risultato, cosa che anche ha sottolineato mi sembra Mihajlovic, anche gli stessi calciatori, quindi al reparto offensivo credo che Bacca sia un investimento importante, perché è un grande attaccante, l'ha fatto vedere non soltanto sul primo gol ma soprattutto nel secondo, per come lavorano anche Luis Adriano e anche quando è entrato Balotelli al servizio della squadra, anche lì manca una certa capacità della gestione della gara quando è in vantaggio, soprattutto anche a volte sembrano impauriti, ecco, di tenere la palla, il possesso palla e anche qualche diciamo così situazione di concentrazione, soprattutto nel secondo gol e anche nel primo che ha fatto questo giovane svedese Ilema, che sicuramente ne sentiremo parlare, però credo che era fondamentale soprattutto la vittoria. In questo momento le squadre che erano indietro, vedi Juve, Milan, l'importante era vincere, poi il gioco è normale che migliorano, il gioco migliora anche i calciatori e quindi verranno anche più risultati. Grazie Antonio, grazie davvero, a presto. Ciao Antonio Di Gennaro. Allora, buonasera gente. Oh, presidente, mi fa molto piacere essere posso, qui insieme. Mi consenta di interrompere. Mi consenta, di solito lo dico io, ma in questo caso sta parlando Garzia, allenatore della Roma. In questa squadra e questa gara. Massimo. Sì, quali sono le cose che dovevate fare meglio nel primo tempo di cui parlava prima? Presi in gioco e non allungarsi, non dobbiamo avere paura perché abbiamo difensori veloci, soprattutto nella cerniera centrale, non si può essere così lungo dell'avversario per fare interventi. Sul piano difensivo non siamo stati bravi questa sera e soprattutto abbiamo perso due punti che dovremo ritrovare in trasferta perché è così. Sebino Nela? Sì, buonasera mister. Buonasera Sebino. A proposito di quello che ha detto, i nuovi o quelli che non hanno giocato in Coppa dovevano stare meglio, è decisamente interessante. Credo che probabilmente è un aspetto mentale questo da parte di questi giocatori che dovevano certamente dare di più, offrire qualcosa di più a livello fisico. Ma è anche per alcuni ho un ritorno dopo tanto tempo, o anche una delle prime partite della stagione. Vuol dire che hanno mancato anche del ritmo di partita, ma questo deve mostrare che le cose si devono compensare in allenamento, dobbiamo fare di più. Perché ancora una volta lo dico, sul piano fisico avevamo troppi livelli diversi. A me la Roma è piaciuta pochissimo oggi, mi è piaciuta pochissimo stante il gol numero 300 di Francesco Totti, quindi una domenica storica da ricordare, da appunto dal manacco del calcio. Invece a me devo dire il Milan è piaciuto moltissimo. Comunque diamo un'occhiata, se lei mi permette, carissimo Genta. Sì, io le permetto, saluto prima Giulio da Milano, perché oggi io voglio Giulio da Milano, l'invasione, speriamo sia milanista. Buongiorno Giulio. Buongiorno. No, sono del Sassuolo in realtà. Grande, quindi... del Sassuolo oggi 2-2. 2-2. Beh, poteva essere meglio, Due punti per... Ha ragione. Garzia, ha, ragione. Ha ragione. Ha ragione. Comunque è andato in vantaggio. E poi c'era un bel precedente di anni fa. Comunque, la mia chiamata era in realtà tra il rapporto fra il campionato e le coppe europee. Cioè, io trovo molto irritante, anche perché io viaggio molto all'estero, molto irritante la mancanza di coraggio oppure altre dimensioni con cui noi affrontiamo le partite estere, ma soprattutto il contrasto con cui noi durante la settimana spendiamo fiumi di carta, parole, commenti eccetera sul campionato italiano, poi mettiamo il becco fuori e prendiamo due sberle enormi. Faccio riferimento al Napoli l'anno scorso, che è stato sbattuto fuori dalla Champions League, che per me è un errore gravissimo. Sei sicuro? Sei sicuro? Imperdonabile, ma è un anno che ne parliamo. Anche perché, ma l'avrei cacciato un dipendente, un dirigente che fa una cosa del genere. Seconda cosa, cioè chi? Rafa Benitez? Sì, certo, c'è un manager, l'ha preparata. Allora, adesso è un anno che ne parliamo, ormai è quasi prescritta, come sa bene Moggi, quasi prescritta questa storia qua. Ma dovevo dirlo io, perché il giornalista sono diventato giornalista, c'ho il tesserino. Sì, va bene, quasi prescritta sta storia, però è un anno che diciamo che che Benitez ha affrontato come peggio non poteva quel preliminare, ma anche dal punto di vista mentale, dal punto di vista delle dichiarazioni, ma se passiamo bene, se no fa niente. No, non fa niente. Comunque, Giulio, questa settimana tutto sommato in Coppa mica male, Cioè, sì, però parliamo della Coppa UEFA, lasciamo stare le due ammiraglie. Europa League. Parliamo dell'Europa League. Cioè, allora, io prendo un anno come una squadra normale, tipo la Fiorentina, so già che non vinco il campionato, allora metto un anno a investire sul fatto di arrivare in Europa e poi, per esempio, gioco come il Basilea. Lasciamo stare un attimo la Fiorentina, ma pensiamo un attimo alla Sampdoria. Cioè, la questione di Zenga, l'errore è gravissimo. Non è che la partita è nata improvvisamente e sono stato colto alla sprovvista. Allora, io investo un sacco di tempo e di energia, ma a parte la figura, diciamo, nazionalista, lasciamola stare l'emotività. Parliamo solo della razionalità del progetto. Ma non si può accettare un errore del genere, non è accettabile. No, ma anche dal punto di vista proprio estetico ed etico, cioè, lì sono stati presi a schiaffoni. Infatti, guardi, Zenga è stato messo sulla graticola per una settimana e poi poi ha in grosso modo salvato la faccia, ma in campionato non è che stiano andando. No, non l'ha salvata, è stato giustificato come tutta la... Sì. Vi faccio l'ultimo esempio, vi rubo un minuto ancora. L'esempio all'estero, dicevo, io lavoro all'estero, è lo stesso atteggiamento che io vedo i miei clienti, dirigenti italiani, quando si viaggia all'estero. L'enorme complesso di priorità non è accettabile. Non è accettabile. Questo... Non si può lavorare, non si può avere potenza energetica, un complesso di inferiorità. Non sanno la lingua o è una questione culturale? Sì, ma la complessa inferiorità non bisogna avere nei confronti di nessuno, né dal punto di vista calcistico né dal punto di vista professionale, a maggior ragione. Su quest'ultimo punto ci ha spiegato lei, non le saprei dire. Dal punto di vista calcistico è evidente come non è che possiamo andare a giocare in Europa con l'idea di non prenderle, basta. Però tutto sommato io dico, facciamo questi discorsi e facciamoli, però arriviamo da un euro stagione, quella passata, che non malaccio non è stata. Giulio, la ringrazio. 800240024. Io però, prima di fermarmi per il meteo, giusto? Per il meteo sarebbe anche l'ora, perché mi sta facendo attendere eccessivamente. Comunque, vorrei dare un'occhiata a questa classifica dopo la quarta giornata. Mancano ancora due partite, naturalmente. Sì. Inter 12 punti in testa, la cosa non mi piace molto. Torino 10, Roma e Sassuolo, squadra molto coesa, 8 punti. Chievo e Sampdoria insieme al Palermo 7, Fiorentina, Lazio, Milan 6, ben inteso la Fiorentina deve giocare ancora la partita stasera con il Carpi. Atalanta 5, Juventus Empoli 4, Verona, Genoa, Bologna, Udinese 3, Napoli 2, Napoli che deve giocare questa sera contro la Lazio, sì. Carpi 1, Frosinone 0. E se non mi prendete neanche questa volta con Confindustria, francamente. No, ma io ci metto una buona parola, Presidente. A patto che rimanga qui ancora un attimo con me. Sentiamo insieme il meteo per vedere se piove, governo ladro. Che tempo farà? No. Devo dire che col Palermo il tempo era molto buono. Che tempo che fa? Coeso allora, e positivo. Poi rientriamo per parlare anche di un grande acquisto che ha appena effettuato. Bravo Genta, bravo. Grazie, Genta, Presidente. Bravo. Grazie. Mi ricorda quella rabona, quella di Bacca, che non lo so che gli è venuto in mente. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Giuseppe Cruciani, Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presento. Tutti convocati. E tutti convocati, sì. 800240024. Vedo che c'è già anche Alessandro dalla provincia di Milano. C'è Pierluigi Pardo. Come va? Come va? Benissimo. Ascolta Pier, io devo finire di fare un discorso col presidente, posso? Certo. Assolutamente sì, siamo. Io saluto la mela marcia. La mela marcia, Pier Pardo. Mela marcia. E non so come l'abbiamo preso anche a premium, ma d'altronde succedono gli errori. Sì, lei si prende la responsabilità delle sue dichiarazioni, naturalmente. Anche nei confronti di Pardo. Assolutamente sì. Molto bene. Non ci sono problemi. Poi dobbiamo salutarlo perché ha molti impegni istituzionali. Comunque volevo dirle, carissimo, io ho sempre molti impegni istituzionali. Sì. Sono molto soddisfatto della gara con Palermo. La mano di Mihajlovic si vede. Dice che mano? Tattica? No, la mano si vede per un altro motivo. Chi non lo fa, chi non fa ciò che dice Sinisa, si becca un cartone in faccia tra naso e bacca. Tra naso e bacca, che ha detto se lo vedo ancora fare la rabona lo appendo al muro. Ma vabbè, Balotelli come la mettiamo? È un grande acquisto, sì. Mi sembra molto coeso, molto positivo. Posso già annunciarvi qua a tutti i convocati weekend, anche alla presenza di Pardo, che a breve ci sarà un grande acquisto in Ibrahimovic, casa mia. Lo sapevo. No. Jackson Martinez. No. E chi? Arriva il fratello di Balotelli. Ah, Enoch. Enoch. In quale... Arriva il fratello di Balotelli. Vabbè, Enoch Balotelli, ma che fa? Gioca? Eh? In che ruolo gioca? E suggeritore. Qui trequartista, regista, no, posto di onda. No, gente. Suggeritore, suggerisce a Super Mario di non fare cazzate. Ah, vabbè. Ok. E comunque come chi usa, ho sentito una risata piuttosto sardonica da parte di Pardo. Non è sardonica, non è vero. Sardonica. E comunque il suo spirito, la sua ironia. Carissimo Pardo, si ricordi sempre che la patonza deve girare. Calla. Buonasera. Grazie presidente, arrivederci, buonasera. Ci metteremo una buona parola. Pier, come va? Adesso proviamo a parlare con Alessandro della provincia di Milano, ma soprattutto della Roma che si inchioda col Sassuolo, della Juventus che torna a vincere, dell'Inter che non smette mai di vincere. 1-0, golletto Icardi, tac, contro la capolista Chievo, e sono altri 3 punti. Punteggio pieno. L'Inter non vinceva le prime 4 partite da 13 anni. Sì, devo dire che secondo me c'è una netta differenza fra le prime due e le seconde due, nel senso che le prime due sono state due vittorie anche un po' fortunate, anche un po' fortunose, con Atalanta e Carpi, e certamente non brillanti. Le ultime due partite con Milan e Chievo segnano un salto di qualità, perché il Chievo sappiamo benissimo che è una squadra che è partita molto bene, perché la vittoria contro il Milan in un derby certamente equilibrato, l'abbiamo commentato settimana scorsa, un derby poteva anche finire in maniera diversa, però sai quando come si dice, due indizi fanno una prova, qui 4 indizi fanno una prova sicuramente. Poi adesso c'è un calendario sulla carta interessante, perché c'è Inter Verona e poi c'è Inter Fiorentina, quindi due partite in casa, poi c'è la trasferta di Genova con la Samp. Insomma, io penso che l'Inter rischi di arrivare, non dico di fare filotto, di andare alla pausa a 21, ma insomma a 19, a 18, insomma, vediamo. Però è comunque un allungo molto interessante, anche perché comunque quello che conta è la distanza dalle altre, no? E sì, quindi certo. Il famoso record delle vittorie consecutive della Roma nel primo anno di Rudy Garcia alla fine fu un record straordinario per le cifre, per i numeri, ma che poi alla fine non si era tradotto in una distanza così clamorosa, perché certo. La Juve comunque correva la stessa velocità, al massimo a meno 5, no? Se non sbaglio, sì, correva la stessa velocità. Qui le cose cominciano a essere interessanti, più 4 sulla Roma, una bella distanza nei confronti della Juve, anche se oggi certamente la Juve ha dato dei segnali importanti di ripresa. Insomma, l'Inter c'è, dai, oggi è impossibile non considerarla. La Roma non tanto invece. La Roma mi sembra che sia sempre un po' un po' stessa. Un po' friabile. Ma mentalmente forse, forse caratterialmente, perché dai, oggi vai sotto di due gol con il Sassuolo, vieni da una partita bella, sofferta come quella con il Barcellona, non devi perdere punti in classifica. Detto questo, Sassuolo ha giocato una grande gara e forse, come ha detto l'ascoltatore prima, meritava anche tre punti. Però... Esatto, ed è esattamente come il Chievo, una realtà importante, cioè noi leggiamo Sassuolo, Chievo in questo momento, ma in realtà sono squadre in questo momento di alta classifica, quindi non è che non si possa pareggiare col Sassuolo, assolutamente, però certamente non è un segnale positivo, non è un segnale di una squadra che riesce a gestire le tre competizioni in una maniera più adeguata, insomma, fra turnover e adrenalina, perché poi questo è un momento della stagione nel quale bisogna cominciare a spingere, il primo momento nel quale bisogna cominciare a spingere, sì. quattro punti, insomma, allora va in casa la Samp mercoledì e ha un solo risultato. Certo, è già, non dico spalle al muro, ma quasi. Pier, proviamo a richiamarti che sente un maluccio, ma richiamiamo naturalmente. Intanto parliamo, vedo Quagliarella, grande protagonista della domenica, due gol inchiodati alla Sampdoria. E Torino che ha liquidato la pratica già nel primo tempo, gran gol di testa per aprire questa partita di Quagliarella, ma Torino con la Sampdoria oggi mai in sofferenza, ma soprattutto Torino secondo in classifica, 10 punti a 2 dall'Inter. Alessandro, buongiorno. Buon pomeriggio Carlo. Buon pomeriggio Alessandro. Saluto a Pier, non so se è ancora in linea. Sì, sì, ma c'è sempre adesso. Sì, ripristiniamo. Alessandro tifoso, ci siamo già sentiti un paio di volte negli ultimi due anni. E appoggio totalmente la scelta della Juventus di quest'estate. Sì. Nonostante il grande scetticismo iniziale e nonostante i de profundis anche di tanti miei colleghi. E apprezzo moltissimo l'atteggiamento e il comportamento di Max Allegri in questo periodo, perché sta mantenendo la calma e soprattutto sa che non ha a disposizione più la squadra dell'anno scorso. È una squadra diversa da quella dell'anno scorso. Esatto. È una squadra da ricostruire, è una squadra da cui ridare un gioco differente, una squadra in cui inserire tanti giocatori. Insomma, sono lavori in corso, lavori continui per la Juventus. È chiaro che servono i risultati, Alessandro, perché senza risultati diventa anche difficile poi cucire questa squadra. E la Juventus tra Manchester in settimana e Genova oggi, partita rognosa, importante, che ha vinto anche con un pizzico di fortuna, perché quel primo gol è chiaramente di Pogba, autorete di Lamanna sulla traversa colpita da Pogba, è chiaramente fortunoso e fortuito. Poi ha raddoppiato su rigore, il Genova ha giocato per lungo tempo fin dalla prima frazione in 10 per l'espulsione di Izzo, e quindi le cose sono messe abbastanza bene. C'è sempre il solito capitolo degli infortuni muscolari, oggi problemi per Morata dopo 22 minuti se non ricordo male, qui Allegri ha parlato di infortuni agli addominali, che è qualcosa di curioso. Problemi anche con di crampi, si vedrà. Ha cercato di spiegare Allegri per Mandžukić. È chiaro che è una squadra che anche fisicamente mi sembra non stia benissimo. Oggi non mi ha dato l'impressione di una salute straripante. È chiaro che veniva dalla trasferta europea. Ci fermiamo per il traffico. 800240024, numero verde. Nel comportamento generale della squadra, nella preparazione atletica della squadra, nella compattezza dello spogliatoio, ha davvero infuso in tutti i giocatori una grande voglia di vincere. Tutti convocati. Tutti convocati. Bacca che riesce a girare, rete! Rete! Che gol Bacca! Incredibile! Milan ancora in vantaggio 3-2. Cattivi bisogna essere avanti, ma bisogna essere anche dietro, Non è che bisogna essere solo davanti cattivi, ma è vero che abbiamo preso due gol da Poli, ecco, due gol, ma quello che mi fa arrabbiare è che comunque cominci bene, vai in vantaggio, poi dopo quando devi ammazzare la partita ti accontenti o magari hai paura di vincere e torni indietro, poi loro gli fanno gol, poi riparte così. Dobbiamo essere più bravi in quelle situazioni. Valeria Bernardi in regia, Claudia Schiattone la nostra autrice, Zelig qui con me, Andro Mercù, Pierluigi Pardo al telefono. A Verona, Inter batte Chievo 1-0, Atalanta Verona 1-1, Bologna batte Frosinone 1-0, a Genova Juventus batte Genova 2-0, Roma Sassuolo 2-2, Torino batte Sampdoria 2-0, Inter 12, Torino 10, Roma e Sassuolo 8, giusto per riepilogare rapidamente la cronaca. Pierluigi, Milan difficile da leggere. Sì, Milan difficile da leggere, ancora una squadra imperfetta, Bacca, però la notizia è Bacca, nel notizia senso che è un giocatore, sì, è un giocatore che comunque ha fatto 30 gol l'anno scorso, nelle ultime due stagioni ha vinto l'Europa League, ha fatto cose eccezionali con il Siviglia, io mi ricordo, ne parlavo anche quest'estate, l'ho sempre considerato un acquisto, un grande giocatore, uno che faceva il pescivendolo fino a 4 anni fa, e poi però è diventato prima a Bruges e poi soprattutto a Siviglia veramente un crack. Che partisse così bene, che partisse così forte, che fosse così pronto per il campionato italiano, questo non era scritto da nessuna parte. Per il resto Mihajlovic ha ragione, cioè il Milan è una squadra con delle energie, con dei talenti, abbiamo visto che c'è anche per esempio Calabria, che è un giocatore che può in prospettiva fare molto, insomma si intravede una luce nel Milan, però non è ancora una squadra perfetta, non è ancora una squadra fisica capace di chiudere le partite, perché ieri troppe volte l'ha rimessa in discussione. Certo. E questo secondo me è il margine vero. Martedì va Udine contro una squadra che è in crisi profonda. Profonda. Ieri ho seguito contestata dai tifosi, veramente in difficoltà, ovviamente per quanto possa esserci brutta Udine, dove chiaramente è un ambiente di saggio, tranquillo, abituato a gestire molto bene le eventuali tensioni, però è chiaro che da quella partenza con la vittoria contro la Juve ci si aspettava qualcosa di completamente diverso, una squadra in questo momento abbastanza svuotata che ieri ha provato l'arma delle due punte forti fisicamente, le due prime punte, Zapata di Natale, che poi però si è disunita clamorosamente dopo l'espulsione di Coné. E comunque rimane un Milan che insomma ieri a me è tornato a piacere Kučka, mi è piaciuto Bonaventura, centrocampo qualche passo avanti, però è una squadra che come detto è sempre abbastanza complicata da leggere e da interpretare, vero signor Ibrahimovic? Che è successo? A me questo non interessa, va bene, se tu vuoi dire qualcosa a me devi venire a me a parlare, sono ok? No, vado, siamo cazzo qui. Cazzo guardi, a me siamo non qui. Interessa niente, ok? Who dick are you? I am Zlatan, I am the number one, non farmi ridere, vabbè, ok? Lo prometto, non lo faccio più. No, volevo invece farvi sentire una cosa che ha detto oggi Felipe Melo. Ce l'abbiamo Felipe Melo dopo la partita, perché il nuovo cattivo è ormai, cioè, lo disegnano più così. Più cattivo di me non mi no, sembra. Ma lui tu lo capisci italiano, gente, male, cazzo guardi. Male. Va bene, a me non interessa, tu giornalista devi sapere tutto di me, di Juve, di loro, di PSG. Faccia bravo che chiamo, okay. Che chiamo il giornalista, vero, Luciano Moggi, quindi adesso. Questa è una cosa giusta, perché poi vi racconto tante cose vere, il giornalista come Luciano Moggi sa e voi non sapete, perché questa è la verità. Va bene, Vettel, Ricciardo, Raikkonen, oggi il Gran Premio di Singapore, compreso l'omino che cammina a bordo pista, ragazzi, è stata indimenticabile, l'omino che cammina a bordo pista. Cioè, abbiamo la voce di Felipe Melo? Allora, il nuovo cattivo, ma non perché è cattivo, perché lo disegnano così, come Jessica Rabbit, è Felipe Melo. Melo picchia troppo sul campo, cosa risponde Felipe Melo? Ma guarda, io veramente no, ti dico, essere sincero, che quella meno male che l'abito ha visto, perché io non ho fatto niente apposta, poi quella palla alta lì sono venuto dietro di me, quindi non l'ho visto neanche. Guarda, che se non vuoi contatto sicuramente devi giocare al tennis, perché il football, il calcio è contatto, e poi non ho fatto nessuna entrata rischiosa, niente, si gioca a calcio con fair play. Allora, chi non vuole giocare a calcio e non vuole prendere le botte vada a giocare a tennis, dove non c'è contatto, magari anche a pallavolo, poteva dire Felipe Melo. Però se Felipe Melo è cattivo, ragazzi, Carlitos Tevez, guardatevi le immagini, noi vi facciamo sentire il sonoro, ma guardatevi le immagini del fallo che ha fatto a Ezequiel Ham, giocatore dell'Argentinos Juniors. Tevez trava con tutto. Ay, la rodilla. El dolor de Ham. El tobillo. Para que sigue Tevez, a ver, para el juego, Álvarez. A trabar lealmente la pelota, ¿eh? Sí, sí, lealmente. Pero cuando uno gana ahí, pasa que no es lealmente. No. Para. Tibia e Perone spaccati all'avversario dell'Argentino Sinos, doppietta per Tevez, due gol meravigliosi, ma anche questo fallo da coprirsi gli occhi. È grottesco. Che cosa, Mughini? E adesso i ben informati, i ben pensanti diranno che Tevez è un criminale che andrebbe radiato dal club delle giovani marmotte. Avrà fatto bene. Detto questo, rimpiango il mio corniciaio che è la persona più intelligente mai conosciuta in vita mia. Dai, va bene. Allora avrà fatto bene Tevez a fare quel fallo. Tibia e Perone rotti a Ezequiel Ham. Allora ci fermiamo per il GR. Vi aspetto subito dopo, ancora un'ora insieme. 800 24 00 24, il numero verde. Ce l'abbiamo fatta a far festa zitti, hai visto? Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati oggi domenica 800 24 00 24 per parlare dei risultati della giornata della quarta di Serie A, in cui l'Inter ha vinto con il Chievo, Atalanta Verona 1-1, Bologna batte Frosinone 1-0, Juventus che torna a correre anche in campionato, ad essere cinica come ha già scritto qualcuno, vincendo 2-0 a Genova con il Genoa, 2-2 tra Roma e Sassuolo, con la Roma che torna ad antichi problemi, perché questa partita poteva anche perderla. Torino batte Sampdoria 2-0 e il Torino è una realtà, signori, doppietta di Quagliarella. Allora, torniamo indietro di meno di un anno, 15 ottobre dell'anno passato, a Bologna si presentava Mr. Tacopina. From now on we'll call you President Tacopina. You can just call me Joe. It's okay. Provo in italiano per due minuti, ma sono molto contento. Un grande onore, vero, veramente. Di fossi rosso-blu, toccami dentro il cuore. Toccami dentro il cuore, però è già finita. Tacopina dice addio al Bologna, dopo aver parlato di stadio nuovo, di quanto era bello il Dallara con quei mattoni, voleva ristrutturarlo dopo aver promesso una grande squadra. Morale, divergenze con Saputo, il reale proprietario del Bologna, e Mr. Tacopina non fa più parte della organizzazione. Pierluigi Pardo è tornato con noi. Ciao Pier. Sì, sto tra l'altro continuando a sentire. Ci ho capito poco di questa storia, francamente. Mi sembra una di queste storie. Io pochissimo, quasi niente. Da calcio moderno, poi alla fine stiamo parlando di uomini. Gli uomini ovviamente hanno, in mille circostanze, in mille situazioni, hanno la possibilità di decidere, anche di decidere di non andare più d'accordo. Quello che conta è il progetto imprenditoriale legato al Bologna, che mi sembra abbia tutte le carte in regola per poter continuare e poter continuare bene. È ovvio che in questo calcio che si basa sui bacini di utenza, Bologna ha una base di tifosi solida, e quindi insomma conservare la categoria è fondamentale. Ed è una cosa che dal punto di vista bellinazziano, no, del business, chissà Bellinazzo che penserà del Napoli stasera, sarà già in fibrillazione, però voglio dire, evidentemente è qualcosa che oggi è sostenibile. No? Oggi Bologna ha fatto i primi tre punti della stagione, un 1-0 non bellissimo con il Frosinone, con le traverse del Frosinone, sì. Però tre punti muovono la classifica, come dicono quelli bravi, Pierluigi. Senti, ma dei continui infortuni muscolari della Juventus, oggi è toccato a Morata, anche Mandžukić è uscito dal campo non benissimo, si vedrà che cos'ha. Continua questo stillicidio di infortuni muscolari. Di Morata Allegri per quanto riguarda Morata, Allegri ha parlato di problema agli addominali, che è qualcosa di curioso. Sì, ha parlato di infortunio strano, figurati per me che non ce l'ho proprio gli addominali, solo pensare a un infortunio di addominali già mi viene da ridere. No, cioè, che qualcosa non stia andando per il verso giusto, questo è evidente, perché insomma ci sono un po' troppi problemi per ora, però insomma alla fine ancora sono troppo pochi i numeri secondo me per poter fare statistica, quindi per me però siamo ancora all'inizio, adesso bisogna vedere. I segnali sono sicuramente quelli di qualcosa a livello di preparazione che non sta funzionando per il verso giusto. Poi vecchissimo discorso sulle lunghissime preparazioni che facevano una volta e che non si fanno più però adesso. Sono, però i viaggi intercontinentali sono ormai un refrain per tutte le grandi squadre europee, quindi non è solo la Juventus che va a giocare dall'altra parte del mondo, sono anche tutti gli altri, però non mi sembra che altre squadre, non solo italiane, abbiano tutti questi problemi di infortuni. Volevo farvi sentire un Ferrero che ha parlato del rinnovo di Eder. Sono partiti con lui, con l'Inter, 8 milioni, io dicevo. Non fatela fare in culo, io dicevo. 8 milioni di che? Mi auguro di andare a giocare in grandi club, perché quando vediamo che pagano 100 milioni delle pippe, capito? Lui è un fuori classe. Ferrero, che dice? Ma che dice? Che dice? Gente, ma che radio siete? Come che radio? Ma te non lo sai che De Laurentiis mi voleva dare per Soriano 8 milioni? Ma di che stiamo a parlare? Ma che sei scemo? Ma vattene a fare in culo! Ma come? Ma come? Ma no, ma per... Buono, presidente. Faccia il bravo, presidente. Però insomma, si è preso la sua rivincita con rinchiostrando Eder. Oggi non bellissima la Sampdoria, o meglio, bellissimo il Torino. Continua a piacermi da morire. Poi sembriamo dei fan di Ventura. Senti, e cosa dobbiamo fare per Luigi? 10 punti in classifica, secondo, anche oggi ha vinto quasi senza sudare la camicia. Sì, no? Sì. Doppietta di Guagliare nel primo tempo e ciao Sampdoria. No, ma è un bel mix di... Però a questo punto, se dico mix, poi mi... Mix. Andrew, mi fai un mix fatto vendoliano? Com'è? Il mix? È il mix. Mix. Ecco, potrei farvi questa lezione. Genda, dica mix. Mix. Mi sembra leggermente berlusconiano, non mi è piaciuto particolarmente. Okay. Lei, Pardo, provi a dire mix. Mix. Questo va meglio. No, comunque, a parte le battute, è un mix straordinario di antico e moderno, di giovani e vecchi. Insomma, è chiaro che Pagliarella non è vecchio, è un giocatore comunque di esperienza, e poi c'è l'intelaiatura di tutta la nostra Under 21. Guarda, io abbiamo parlato all'inizio, e poi si rischia di celebrare l'epopea di un presidente stiamo facendo anche della cronaca. La cosa secondo me che ci deve far riflettere è che nei momenti nei quali Cairo veniva osteggiato e considerato uno che spendeva poco, che non aveva la forza per fare un salto di qualità o che magari vendeva i pezzi pregiati, stava costruendo i successi di questa squadra. Cioè, questa squadra nei momenti di minore popolarità del presidente ha costruito il gioiello che è oggi. Poi è ovvio che il secondo posto verrà ridimensionato, è una squadra che secondo me possibilmente può puntare all'Europa League, alla qualificazione per l'Europa League, che però, visto il fatturato e vista la distanza che esiste rispetto alle grandissime, è un risultato straordinario, certamente. E poi c'è l'allenatore, vabbè, che anche qui sono tante componenti, Pierluigi, sono tante componenti, sono tanti tasselli che sono andati al posto giusto, e il Torino in realtà, quello che io torno a ripetere, quello che più mi sorprende è il fatto di riuscire a rivitalizzare comunque i giocatori, al di là dei giovani, al di là di una politica di mercato improntata su vari livelli. Quella è l'avventura, l'ambiente, cioè avranno la piscina magica, come detto lì a Torino, faranno il bagno nella fontana magica. Allora, presidente Berlusconi, mi ricordi il numero verde? E la faccio assurda. Il numero verde, che è il seguente: 800 24 00 24 24 24. Se non mi prendete adesso, a Confindustria 24 00 24, se volete chiamare. Siamo qui, insomma, fino alle 7, compreso il presidente Berlusconi e tutti gli altri. A dopo. Adesso che questi giocatori sono più sereni e più ricchi, dove può arrivare la Samp? Alla ricchezza totale, perché se ha dei giocatori ricchi vuol dire che Ossi è più ricco di loro. Tutti convocati. Fluentes, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentes.com. Vi presenta. Tutti convocati. Pronto Icardi. Va ancora Icardi. Col sinistro. Vantaggio Inter. Eccolo qua. Primo gol in campionato per il bomber della scorsa Serie A. Non sbaglia Maurizio Icardi. E non sbaglia, no, Maurizio Icardi è il signor Bandanara. Non sbaglia e porta l'Inter alla quarta vittoria consecutiva. Il che ci porta a dire che comincia ad essere una cosa seria. Anche se mi hanno detto, ne riparliamo tra 31 giornate. L'uscita. No, erano 10 giornate. No. Genta, ci vuole un giornalista vero come sono io, perché c'ho il tesserino, mica come voi. Ah, no, già abbiamo anche noi. Però noi ce l'abbiamo. Non è che sì, non ma io dico la verità, voi non la dite. Ah, vabbè, sì, no. Perché Mongiopoli non esiste. Ah, certo, naturalmente, questo lo sappiamo bene, ma da anni. 800-24-0024, il numero verde, è Andrea Sorrentino da Repubblica, oltre più Luigi Pardo, naturalmente, collegato. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Sai che ti dico? Che mi sembra che Felipe Melo stia quasi diventando il simbolo di questa Inter. Senti come la sparo grossa. Sì, ma lo è senz'altro, però rischia di eccedere, perché anche oggi è andato un po' oltre i limiti della grinta e della combattività, perché non so se avete rivisto qualche episodio, ma insomma, sì. Ecco, c'è uno zigomo fratturato, sì, del povero Nkunku, un paio di entrate un po' così pesantucce, e quindi è un giocatore che senz'altro tra poco entrerà nel mirino telescopico di tutti gli arbitri del regno, e quindi qualcosa pagherà. Che peraltro però lo conoscono da anni, E poi lo conosco, L'avevamo dimenticato, poi è cambiato un po' anche. E poi secondo me dipende anche dal contesto. In questo momento è chiaro che Felipe Melo si porta nel bene e nel male questa patente, e addirittura questa patente quasi da simbolo di una squadra completamente diversa, molto più fisica rispetto al passato, molto più cattiva. Ecco, posso dire brutta, sporca e cattiva, in realtà non così brutta, nemmeno così sporca, nemmeno così cattiva, ma insomma con un'accezione però positiva secondo me per i tifosi dell'Inter, che finalmente trovano una squadra che è solida, che combatte, che esce con la maglia, con la famosa etica della maglia sporca di sudore, bagnata di sudore. Insomma, mi sembra che Felipe Melo rappresenti una grande differenza da questo punto di vista. Però la differenza la fanno anche secondo me i difensori, una squadra che ha subito un gol soltanto in 5 partite, sì, senza Miranda, che in teoria dovrebbe essere il più forte di tutti, il più forte di tutti là dietro, quindi. No, e poi loro in questo momento si fidano molto di questa esuberanza atletica, ma si vede proprio a occhio nudo in campo che loro sono molto, hanno una certa prosopopea, una certa sicurezza, soprattutto non è più l'Inter esitante, incerta e sempre sull'orlo del baratro che eravamo abituati a vedere, sì, a livello difensivo. Adesso c'è proprio un'altra consapevolezza, oltre che fisica, anche mentale. E con questi risultati positivi credo che queste consapevolezze aumenteranno e magari sfoceranno anche, diciamo così, una fluidità di gioco migliore, perché per adesso non si è vista, però non la si è vista in nessuno, penso, dopo 4 giornate, quindi penso che a Mancini ridano anche. È abbastanza sorprendente, a Carlo e Andrea, la differenza rispetto al precampionato, nel senso che il precampionato, che sapete, finisce ovviamente 5 giorni prima dell'inizio della stagione, aveva consegnato un Inter molto fragile, che sembrava in ritardo anche dal punto di vista della condizione. Però attenzione, non aveva finito il mercato, Piero. Non aveva finito il mercato, quindi sono queste due chiavi. Sì, e poi chiaramente sappiamo anche che quando si comincia a giocare, quando ci sono 3 punti, cambia tutto. Cambia anche il fatto, e secondo me è stato importante, alla fine di questa stagione potrebbe essere stata la chiave, di quel gol di Jovetic alla prima giornata, che secondo me ha cambiato molto, ma è chiaro. Ha consentito a Mancini di lavorare con una certa serenità. D'altra parte, se vinci, vincere aiuta a vivere meglio, no? Andrea Sorrentino. Sì. No, ma poi quest'estate Mancini ha fatto una di quelle preparazioni che si faceva proprio una volta 30 anni fa, cioè tutta sul fondo, sull'intensità. Tanto non hanno le coppe, è la squadra che giocherà probabilmente meno partite di tutti in Italia, l'Inter, entrando in Coppa Italia soltanto dai quarti di finale e poi giocando solo il campionato, quindi hanno fatto una preparazione proprio calibratissima per partire lenti, almeno per fare un precampionato un po' faticoso e poi piano piano crescere di condizioni. Mi sembra che fino adesso il disegno stia riuscendo, poi aspettiamo ovviamente, ma non abbiamo visto ancora. Mi dite chi è la vostra favorita? Andrea e Carlo, chi è la vostra favorita oggi? Oggi se dovessi giocarti 10 euro Inter, Juve, Roma. È ancora la Roma per adesso, secondo me. Ma visto, quella vista oggi, insomma, mi sembra una squadra propensa agli sbandamenti, Però non si gioca tutte le domeniche tre giorni dopo il Barcellona, quindi sai, oggi era una partita un po' particolare per la Roma contro un avversario anche che ormai tradizionalmente difficile per la Roma. Secondo me, se riusciranno a gestire le forze con la Champions e con la panchina più lunga quest'anno, potrebbero farcela. La Roma è ancora favorita di un'incollatura sulla Juve e poi sull'Inter, sì, questa è la mia personale. La mia rimane la Juventus, nonostante il ritardo in classifica, e non dimentichiamo, Pier, che è vero che la Roma giocava tre giorni dopo il Barcellona, però la Juve giocava quattro giorni dopo essere andata a vincere sul campo del City e giocava a Genova. Anche la mia rimane la Juve, tanto più che adesso la Juve un pochino si è riavvicinata, Inter a parte, al gruppone, e quindi considero ancora la Juve una possibile favorita. Certo, la distanza non è poca, però ecco, l'Inter, sono bastate quattro partite per fare dell'Inter una possibile protagonista per il campionato, e questo non era affatto scontato. Io ti dico, anche in quell'Inter-Atalanta che avevo intravisto la prima giornata di campionato, avevo notato una squadra, e lo ripeto spesso, forte fisicamente, che è una delle caratteristiche con le quali Mancini aveva costruito i successi della prima Inter, completamente diversa in questo rispetto all'anno scorso, e probabilmente alcuni giocatori, penso a Kovacic e forse anche allo stesso Hernanes, con la loro qualità che è indiscutibile, però forse nel progetto di una squadra Sturm und Drang come quella che aveva in testa Mancini c'entravano poco. Sì, sono d'accordo, anche se all'Inter adesso conviene correre abbastanza coperta, perché l'ambiente non è semplicissimo, questo lo sappiamo, quindi fa bene Mancini a prendere l'idrante, a spruzzare acqua ovunque. Rispondiamo insieme a Massimiliano da Roma, poi salutiamo Pierluigi Parda e Andrea Sorrentino. Massimiliano, buongiorno. Massimiliano, pronto? Ciao. Ciao Massimiliano da Roma. Niente, ascoltavo la trasmissione ed ero curioso proprio sul comportamento della Roma. Forte con il Barcellona e la Juve, e inceppa continuamente al campionato con le provinciali, un po' sembra come l'anno scorso, diciamo quando giocava l'anno scorso, forse anche con le forti andava poco bene. Però quest'anno mi è sembrato molto forte con le forti e piuttosto tentennante con le provinciali. Ma ci sono un sacco di fantasmi intorno alla Roma, c'è, come dicevo prima, il recente passato, c'è la stagione scorsa disgraziata, perché è stato così al di là del risultato finale, c'è questa tendenza ad avere difficoltà dopo la Champions League, c'è questa tendenza ad avere difficoltà con le piccole, ci sono un po' tutte queste componenti, no? Pierluigi, Andrea Sorrentino, cosa ne pensate? Assolutamente sì, diciamo che Garzia non ha ancora vissuto un periodo sufficientemente lungo di risultati positivi dopo la crisi dell'anno scorso. Sì. E quindi volendo fare un paragone e fare una correlazione tra la passata stagione e questa, ancora secondo me non è completamente guarita la Roma, ancora forse ecco contro la Juve abbiamo visto gli sprazzi veramente di squadra dominatrice come nel primo anno della gestione Garcia. Adesso è complicata, poi comunque la classifica ha un peso, perché io ribadisco, l'Inter ha due partite in casa contro Verona e Fiorentina, per dire, la Juve fra una settimana gioca contro il Napoli, non se la porta la casa, la Roma ha una trasferta a Genova, sai, se l'Inter comincia ad allargare ulteriormente la distanza, poi certo. Ma poi cominciano a crederci sul serio, poi si innescano un sacco di meccanismi, Andrea Sorrentino. No, tra l'altro oggi, ecco, proprio per parlare di questioni ambientali, erano anni che non assistevano alla partita dell'Inter con un pubblico così numeroso in trasferta, oggi a Verona, e un pubblico molto poco interista nell'atteggiamento, perché era gente che ha iniziato dal primo minuto, al primo passaggio giusto fatto dall'Inter, ad applaudire a scena aperta con un entusiasmo, una carica, che davvero non... non avvertivo intorno all'Inter da molti anni. Mi sembra che si stia creando, diciamo così, un ambiente positivo. Questo è un altro bel elemento su cui riflettere, dell'autolesionismo interista, ecco. Sì, questo è un altro bel argomento su cui riflettere. Grazie ragazzi, grazie Andrea. Ciao Pier, ciao, ci sentiamo domani noi, eh. Sto entrando allo stadio, ci sentiamo domani stasera, grande, ma non abbiamo niente a Napoli Lazio, eh? Napoli Lazio? Vediamola. Tanto ti dico che Carpi Fiorentina 0-0 al 29esimo. Sta succedendo un pochino. Grazie Pier, buon lavoro, ciao, buon lavoro nello stadio. Onorevole Gasparri, un cordiale saluto dal senatore Maurizio Gasparri, come giustamente dice lei, asserisce. Beh, io mica dico bene, eh? Non benissimo. E io dico buonasera a sti cazzi, se mi permette. Relativamente. Io penso sia auspicabile parlarsi chiaro, gente, a tal punto lo dicano. L'espulsione per la Juventus sì, ma il rigore per la Roma no. E allora non va bene, capisci? Gente, adesso io ve faccio. Parliamo, l'espulsione della Juventus c'era. Il rigore della Juventus c'era. Adesso non ci allarghi, non ti allargare, gente. Adesso io ve faccio un bel tweet e poi faccio pure il retweet. Allora, chiocciola o chiocciolina a seconda dei casi, tutti convocati weekend. Hashtag mobasta. Me l'aspetta. Ma tweet a parte, dico, non ho capito bene di che cosa si sta lamentando. Allora, c'era un rigore grande come una casa su Rudiger. Se lei non l'ha visto, gente. Nel finale potevano fischiarlo, una leggera dovevano fischiarlo, mentre l'espulsione di Izzo del Genoa è assolutamente inventata. Il problema è che poi è risultata decisiva e fine del risultato finale. Oramai si è stabilito un sistema sovietico imposto da Juventus. Esageriamo pure, è inammissibile, è insopportabile. Mo basta. Forza lupi, sono finiti i tempi cupi. Vediamo, vista la partita di oggi non sarei così convinto, ragazzi. 800 24 00 24, numero verde. Poi torniamo, parliamo anche della vittoria della Ferrari, anzi dello strepitoso weekend della Ferrari. Parleremo invece della partita, non è andata benissimo, anzi tutt'altro, perché ai mondiali di rugby la Francia ci ha, come da pronostico, asfaltati. Altro che Italia, il Giappone batte il Sudafrica e questa è la prima grande notizia che è uscita dai mondiali di rugby inglesi. Tutto questo e poi naturalmente ancora calcio e vi aspettiamo 800 24 00 24. Quest'Inter ha la faccia di Felipe Melo? No, Felipe Melo c'ha la faccia dell'Inter. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo del Guerrero, abbiamo fatto fino adesso una grande famiglia, che con tantissime umiltà e con Dio capacitando possiamo andare più alto possibile. Tutti convocati. Tutti convocati 800 24 00 24, il numero verde. C'è chi scrive Totti in leggerissimo, scritto in maiuscolo, fuori gioco. Oppure chi scrive Damiano da Palma di Maiorca, beato lui, se non avete visto il rigore per la Roma cambiate sport, esiste il chirurgo oculistico anche con il laser, siete peggio di Moggi, scrive il nostro amico da Palma di Maiorca. E adesso però queste cose non vanno scritte, perché io dico la verità e questo vostro ascoltatore non la dice. Va benissimo, direttore, adesso poi vi racconto una geek. Adesso ho degli ospiti, se mi consente un leggermente più importanti, perché stiamo per introdurre l'argomento Ferrari. Stiamo per introdurre l'argomento Ferrari e abbiamo il premier Rezzi. Ciao a tutti, ciao Ciccio. Beh, anche quest'oggi al 100% la mia presenza ha portato fortuna alla Ferrari. A tal punto le parole del presidente Mattarella sono del tutto influenti. Desidero ringraziare molto, a nome di tutto il nostro paese, quale esempio e testimonianza delle grandi risorse di italianità nel mondo, la rossa di Maranello con la vittoria di Massa. No, Massa, che Massa? Massa corre più per la Ferrari, Ha vinto Vettel, presidente. Massa non corre più in Ferrari. Splendida la corsa della rossa in Russia, che è pur sempre rossa. Ma no, come in Russia? Russia ha giocato l'Italia del tennis, si correva a Singapore. E colgo l'occasione per ribadire la mia più fervida e viva ammirazione per i valori espressi in pista dal cavallino. Viva la rossa e viva il Palermo. Ma che c'entra? Grazie. Grazie Presidente Mattarella, grazie, grazie. Comunque, al di là di questo, non si correva in Russia, non ha vinto Felipe Massa ma Sebastian Vettel, e direi che è stato il weekend perfetto però per la rossa. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, buongiorno, ciao. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Meglio di così, beh, forse puoi fare primo e secondo con Raikkonen invece di primo e terzo. Vabbè, ma non esageriamo, dai. Non esageriamo, non ci allarghiamo. Non allarghiamoci. Però grande weekend, una pole position che torna dopo. Una pole position non arrivata per fortuna, perché magari ha approfittato delle condizioni meteo, ma perché la Ferrari era obiettivamente la miglior macchina in pista, è un Vettel perfetto e una macchina che lo ha sorretto fino alla fine, cosa che poi si è ripetuta in gara, perché poi Vettel ha dovuto vincere la gara tre volte oggi, perché ogni volta che pigliava un distacco la safety car interveniva e glielo annullava, lui ripartiva. Sì. È stato un weekend in cui si è rasentata veramente la perfezione per quanto riguarda Vettel e la Ferrari. Sì, si è rasentata anche la follia con quell'omino in pista che camminava a bordo pista. Sì, come follia farli correre per due ore a Singapore in una gara lunghissima, spesso diciamolo anche un po' noiosa, perché possiamo anche dirlo, anche se ha vinto una Ferrari e se adesso i sogni si allargano, però la gara non è stata proprio il massimo del divertimento, anche se là davanti c'era una Ferrari, quindi qualcosa da rivedere c'è sicuramente. Poi se in un circuito come quello, tra alberghi a 5 stelle o anche superiori, car driver, riesce qualcuno a entrare in pista, è veramente la follia pura. Sì, sì. Senti, ma Rosberg quarto, quindi Vettel davanti a Ricciardo che pure ha fatto una meravigliosa corsa, terzo Kimi Raikkonen, quarto Rosberg, nella domenica in cui problemi alla Power Unit appiedano Hamilton. Viene voglia di dire che per Rosberg sia la grande occasione perduta, no? Sicuramente, ma viene anche da dire che forse dietro a questa vettura c'è qualcosa di più. Perché adesso mancano 6 gare e se la Mercedes dovesse continuare ad avere le difficoltà che ha avuto a Monza, ricordiamo si è rotto il motore di Rosberg, e qui a Singapore dove è saltato il motore di Hamilton, ecco che i sogni della Ferrari potrebbero assumere delle proporzioni che mai ci saremmo aspettati. Tutto sta da capire se la Mercedes qui è andata male per via delle caratteristiche della pista, che sono comunque uniche, del caldo terrificante che c'è a Singapore, oppure se il nuovo motore crea dei problemi di affidabilità e quindi li costringe a stare un po' più attenti nella potenza, e io oserei dire anche qualche problemino magari dovuto alla pressione delle gomme, che da Monza in poi viene super controllata perché non è più permesso sbagliare. Ma curioso comunque questa fragilità sopravvenuta della Mercedes. Sì, è curioso, appena hanno messo l'ultimo step, lo hanno esaurito i gettoni e è saltato qualcosa, mentre io ho come la sensazione che la Ferrari abbia giocato molto all'attacco e da Monza abbia anche lei un bottoncino o qualcosa di particolare per avere un extra power in qualifica, perché a Monza abbiamo avuto un Raikkonen pazzesco in prima fila e qui un Vettel imprendibile, quindi che la Ferrari nel suo ultimo step abbia messo qualcosina in più per la qualifica, incomincio ad avere la sensazione che sia. Senti, ma cosa c'è di più bello del paradiso? Perché usando le parole, parafrasando, arriva bene all'inizio della stagione, 3 gare, 3 vittorie sarebbero il paradiso, mi pare. No, in realtà 3 vittorie erano il trionfo e la quarta sarebbe stato andare in paradiso. Allora il paradiso può attendere. Il paradiso può attendere, ma non più di tanto, perché io credo che in 6 gare ci sono ancora delle piste dove la Ferrari può vincere. E poi soprattutto bisogna capire che già domenica in Giappone che Mercedes andremo a vedere in pista, perché questa potrebbe essere veramente la gara della svolta impensabile del mondiale. Io pensavo che il mondiale fosse ormai saldamente nelle tasche di Hamilton, e adesso invece credo che anche lui cominci ad avere qualche dubbio, non tanto perché Rosberg si è avvicinato ed è a 41 punti rispetto ai 53 di questa mattina, ma perché c'è una Ferrari che può veramente metterlo in difficoltà se la Mercedes non dovesse tornare quella che abbiamo visto. Sì, quella che non si rompeva mai neanche con il martello. Ma io credo che i dubbi di Hamilton, la pressione per Hamilton possa derivare più dalla, insomma, dai problemi interni che non da un fatto che Ferrari sta andando fortissimo, ma che è comunque lontano, perché io credo che 49 punti sono comunque tanti, sono tanti. Cosa unica anche nella storia della Formula 1, però sai, se incominci a rompere una volta, era il primo zero in classifica di Hamilton, questo dopo le difficoltà che aveva avuto in Ungheria. Ti dico, domenica in Giappone, su una pista che sinceramente dovrebbe essere favorevole alla Mercedes, viste le caratteristiche, se la Ferrari dovesse anche di essere vicina alla Mercedes avere dei problemi, ecco che allora saremmo autorizzati a pensare a un mondiale, a una fine diversa del campionato del mondo. Di Vettel abbiamo parlato sempre tantissimo e ha ragione. Mi dici una parola sulla corsa di Raikkonen oggi? Bah, è stata una corsa tranquilla, diciamo, non si è addormentato al via, ma non ha neanche mai dato la sensazione di poter attaccare Ricciardo. Ecco, forse mi sarei aspettato un attacchino a Ricciardo, invece non è mai stato nella sua scia, non ha mai tentato, insomma, diciamo si è accontentato del podio. Tra l'altro era veramente una vita anche che due Ferrari non salivano sul podio, perché era dal Gran Premio di Spagna del 2013, dove c'era tra l'altro anche Raikkonen, non con la Ferrari, ma era sul podio anche lui tra Alonso e Nani. Però si è accontentato, diciamo che veniva dal terribile weekend di Monza, dove ha fatto quella gaffe della partenza, ha preferito non rischiare perché poi comunque rischiare sulla pista, con una pista come Singapore, può anche voler dire andare contro un muro, certo. Far intervenire la safety car, e poi tutte le volte che intervengono la safety car per il pilota che è in testa possono nascere dei problemi nuovi, quindi insomma non era il caso di complicare la vita di Vettel. Direttore, ti chiedo un'ultima cosa calcistica, posso? Assolutamente. Chi ha vinto la tappa di oggi? La tappa di oggi l'ha vinta ancora l'Inter è la quarta vittoria di fila, però vede riapparire in lontananza quella che sarà la grande avversaria, cioè la Juventus, che comunque vincere col Genoa non era una cosa semplicissima, visto le prime tre giornate di campionato, però l'Inter è sicuramente la vittoria di tappa, è ancora una volta dell'Inter, quattro vittorie consecutive nelle prime quattro giornate sono qualcosa... Sono più di un biglietto di fiducia, insomma, certo. Non capiva da 13 anni, anche se poi era finita male, però insomma sono anche record stati poi per farli finire in modo diverso. Altro l'Inter mercoledì al Verona, quindi potrebbe allungare. Ha segnato anche Icardi, che è importante, certo. Però cioè, la Juventus è lì, la Roma non si capisce perché giochi Totti e non Zeko, anche se Totti ha segnato, però insomma, è la sconfitta della giornata è la Roma non c'è dubbio. Non doveva perdere punti a casa con il poi applausi al Torino, che comunque ancora lì. Certamente. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie, Umberto Zappelloni. Allora, adesso ci fermiamo ancora un attimo per le notizie, per i tanti che sono in viaggio, che sono ultimi weekend d'estate con le strade particolarmente affollate. 800 24 00 24, il numero verde. Vi aspettiamo. È l'inizio di una nuova era, possiamo dirlo ufficialmente a partire da oggi? Guarda, a me le nuove era non importa, l'importante è vincere, basta. Tutti convocati. Tutti convocati. Qual è il primo ricordo che le viene in mente di Napoli? Vabbè, è troppo facile, veramente è un bellissimo ricordo. È stata una serata piena di emozioni, piena di prima di tensione, poi di emozione, poi di felicità, e quindi ci ricordiamo benissimo, però è il passato. Sarà una partita da affrontare con molta decisione e con molta attenzione. Sicuramente Napoli è una squadra molto competitiva, Napoli è costruito per lottare al vertice, per fare da protagonista anche la competizione europea. Ha cambiato allenatore, che sicuramente ha una filosofia di gioco, un modo di lavorare diverso dall'allenatore precedente. Credo che la partita di giovedì sera per loro sia stata un'ottima partita, hanno tanta qualità e stanno cercando di interpretare le gare in modo diverso, quindi chiaramente richiederà un po' di tempo, ma credo che il Napoli sia una squadra molto molto ben attrezzata. Sera partita importantissima per entrambe, per il Napoli soprattutto, perché insomma io credo che i 5 squilli di una serata strana, di Coppa importante finché volete contro il Bruges, non possano portare a dire che il Napoli è totalmente guarito. Servono punti in campionato, Napoli più o meno con le spalle al muro, basta leggere la classifica, e vedremo se è davvero l'attacco a tre come disegnato da da Sarri in Coppa è la soluzione migliore. C'è chi dice di sì, ad esempio Pardo ne è convinto, c'è chi ha dei dubbi perché non sembra esattamente la formula migliore per Gonzalo Higuain, per sfruttare le caratteristiche di Gonzalo Higuain. Intanto si è chiuso il primo tempo di Carpi-Fiorentina, i Viola sono in vantaggio 1-0 dal 35esimo minuto, il gol in mischia di Babacar. Dunque Fiorentina 1, Carpi 0, ed è questo il primo dei due posticipi. Ricordiamo la vittoria della Juventus a Genova con il Genoa, abbiamo fatto molte volte, quella dell'Inter a Verona con il Chievo, il 2-2 interno della Roma con il Sassuolo, il 300esimo gol in Serie A, quindi questa è una domenica storica certamente, 300esimo gol con la Roma di Francesco Totti. C'è stato anche un gol meraviglioso peraltro di Salah, che è quello che ha fissato il 2-2 definitivo, forse il gol più bello della giornata. Moggi, bentornato. Ma io sono sempre qua, ma bisogna dirle certe cose. Allora no, Jetta, mettiamo i puntini sulle i. Ma mettiamoli da allora, voi, visto che io sono giornalista, perché c'ho il tesserino e io sono qua per dire la verità. Nessuno di voi, né lei, né Capuano, né Pardo, avete svelato il perché Muntari se n'è andato. Perché Muntari non gioca più al Milan? Non l'avete detto, io invece dico la verità. Non lo volevano più. Ti svelo, è uno scoop ed è Luciano Moggi che ve lo svela. Allora, perché? Perché in doccia faceva venire i complessi di inferiorità agli altri giocatori, serpeggiava la frustrazione, il disagio psichico. Questa è la verità. E il giornalista Luciano Moggi ve la racconta. Diciamolo. E allora diciamolo: serpeggiava il malumore, serpeggiava il malcontento, serpeggiava l'invidia. Ma poi, se vuoi, c'è un'altra notizia, io ne ho tantissime. Tutte vere, ma sono tutte vere. Per esempio, Neymar è guarito dagli orecchioni. I medici però hanno accertato un principio di orchite alle palle piene di Luis Enrique. Vabbè, prendiamoci anche questa. Volevo parlare dei mondiali di rugby, se riusciamo a collegarci con l'Inghilterra e con Giacomo Bagnasco, perché ieri siamo stati... non ce la facciamo a fare cosa? Cade la linea con Giacomo Bagnasco, vabbè. Volete, ne parleremo domani, ne parlate voi, 800 24 00 24. Non mi sorprende più di tanto la brutta sconfitta dell'Italia contro la Francia. Sono più forti di noi, più o meno la solita Italia, tanta difesa. Ma non ero presente io, se c'ero io al 100% l'Italia faceva anche contro la Francia. Sicuramente. Certamente. Allora è tutta colpa del governo, mi permetta di dirlo. Sarebbe stata colpa del governo se con la mia presenza, invece impegni istituzionali mi hanno costretto altrove. Non so se ci fosse il premier giapponese, tra l'altro Giappone che ospiterà la prossima edizione dei mondiali. Questa è un'impresa storica e clamorosa del Giappone, che non ha una grandissima tradizione rugbyistica, se la sta costruendo certamente, però tredicesimo nel ranking mondiale, però il Giappone con tra l'altro una meta a tempo scaduto ha battuto una delle grandissime favorite, cioè il Sudafrica, gli Springboks, e quindi insomma, in qualche modo ha ipotecato, cioè, ha messo una pietra importante su un possibile passaggio del turno. Per l'Italia invece è durissima, perché nel nostro girone, come sapete, oltre al Canada, che non dovrebbe rappresentare un problema, oltre alla Romania, che invece secondo me qualche problema in più ce lo creerà, c'è l'Irlanda, che è onestamente la squadra più forte di questo girone. Passano le prime due e l'Italia se la giocava una partita importantissima ieri contro la Francia, una sorta di dentro fuori. Poi è chiaro, siamo appena all'inizio, vediamo come va a finire. Sabato alle 15:30 c'è il Canada a Leeds. Quella è una partita da vincere a tutti i costi. Dobbiamo salutare la compagnia, presidenti, direttori, premier. Ma secondo me non prima di aver fatto un bel pronostico, assolutamente un bel pronostico per la partita, il partitone di questa sera, che è Napoli-Lazio. Sì. Questa sera, allora, devo dire che sarà sicuramente saranno giocatori fondamentali, ne sono orgoglioso perché li conosco, Zuniga e De Guzman. Che non giocano. Ah sì? Ah sì. non sì. giocano? No. Comunque mi fa molto piacere che ci sia un grandissimo allenatore sulla panchina, sulla panchina del Napoli, perché Benitez è sempre stato Benitez, un allenatore di una certa... Cosmi Benitez è andato via ad allenare Real Madrid. Ah non sì? Maurizio Sarri. Ragazzi, ma queste cose dovete dirle. Dai, Andro, con la tua voce, facci un pronostico. Un pronostico? No, sì. Per carità, io sai, no? Ci vedo bene un bel 1-1. 1-1. Giocate l'1-1 tra Napoli. Secondo ragazzi. Me questa non è la verità, solo io so il risultato, ma non ve lo dico. Ah, certamente. Glielo dico all'arbitro. Certo. Intanto è 1-0 all'inizio della ripresa tra Carpi e Fiorentina, ricordiamo, anzi non è ancora iniziata la ripresa, sta per iniziare il gol in mischia di Babacar. Bene, ci fermiamo qui, grazie a Claudio Schiattone, grazie a Paolo Corleoni, grazie naturalmente a Zeli Gandro Mercù. Grazie a voi, grazie Carlo. Mi sono divertito moltissimo, ci sentiamo con tutti i convocati domani pomeriggio alle 2. Ciao. Sei un campione, grande Sepp. Grazie ragazzi, grazie. Che giornata, che giornata. Che dire, che dire. Mi senti?